L'altra Europa. Buon sabato da Federico Taddia e benvenuti all'Altra Europa. Siamo in diretta dagli studi di Radio 24 con il nostro appuntamento settimanale che racconta l'Europa, un programma in collaborazione con Euronet, questo network internazionale di radio europee per raccontare il nostro continente da tanti punti di vista diversi. Noi andiamo alla ricerca di altre storie che sfiorano l'attualità, ma aiutano appunto a dare un respiro europeo, aiutano a costruire una nuova cultura europea. Come sempre siamo su Facebook in diretta nelle nostre pagine ufficiali facebook.com/l'altra Europa, dove carichiamo in diretta tutti i link relativi agli argomenti trattati. Radio24.it invece è il nostro sito, dove potete poi riascoltare tutte le puntate in podcast. Si parte per questo viaggio europeo costruendo una nuova Arca di Noè. Torsko budujemy statek dla siebie po to, żeby wypłynąć. To gdzie by panowie chcieli popłynąć? Jest jakieś miejsce? Nie ma. Nie ma. To będzie... To kapitan wie, ale to będzie dookoła świata. Marzenia. Oj, marzeń to jest pełne. Nie no, cały świat jest ciekawy. To nie ma chyba... No wszystko jest ciekawe. Tu też chowałem to wszystko, ja tu 9 miesięcy od początku. Le voci che state ascoltando sono voci che abbiamo estrapolato da un video che abbiamo già caricato in Facebook. Sono le voci di 25 senza fissa dimora che, sollecitati da un sacerdote che è morto anche pochi mesi fa, stanno realizzando un'impresa molto particolare. Sembra una storia uscita da un film. Non è un'arca di Noè, ma è una nave, quella che questi 25 senza fissa dimora stanno costruendo, perché erano ospiti di una casa a loro dedicata, erano ospiti appunto di un centro di assistenza. Questo sacerdote si accorto che quasi tutti questi senza fissa dimora erano operai che provenivano dai cantieri navali, e quindi ha avuto un'idea ed è stato ok. Sono depressi, hanno perso il lavoro, perché non ripartire da quello che sanno fare, cioè costruire navi? E così hanno raccolto fondi ed è partito questo progetto che li vede a tempo pieno impegnati per realizzare questa nave e partire nel 2013 per fare un giro del mondo. Per conoscere meglio la storia abbiamo invitato una studentessa di giornalismo a Breslavia, lavora in una radio universitaria. Diamo il benvenuto a Malgorzata Paola Zec. Ciao Malgorzata. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te, ciao, grazie per aver accettato il nostro invito. Tu lavori in una radio, in una web radio, se non ho capito male. Sì, giusto, è un radio universitario, si chiama Uniradio. Sì, e sono molte diffuse lì nell'università polacca? Sì, questo radio, ad esempio, funziona a Breslavia. Sì. È una città verso il sud di Polonia. Sì. Allora, la nostra università e il suo radio. Abbiamo vari programmi che parlano di politica, di cultura, di musica e così. Ok, insomma, è una realtà simile a quella che c'è anche in sì, Italia, e sappiamo il valore di queste radio universitarie, perché sono veramente dei laboratori di comunicazione e non solo. Malgorzata, però, abbiamo scoperto davvero per caso questa storia molto particolare, che lì è conosciuta, tu ne eri venuta a conoscenza o è una storia piccola di cui non hanno ancora parlato? No, sinceramente, per me il tema... molto interessante, però già si è iniziato pochi anni fa, nel 2006. Sì. Allora adesso, come i lavori procedono ancora, non si parla più così tanto. Ok, ma e questa nave c'è? Qualcuno l'ha vista? Cioè, adesso io ho visto questo video dove insomma si vedono gli operai che la stanno realizzando, lavorando 8-9 ore al giorno, quindi è comunque un progetto che cresce, che continua. Sì, certo, perché tutta la storia è fatta da questo prete, che lui ha inventato questa nave, che si può costruire una nave. Sì. Così questa gente, come già ha detto, come erano operai, erano capaci di fare questi lavori. In più questo poteva essere come una terapia per loro. Allora adesso stanno facendo tipo un sito, un fotoblog. Sì. Ogni giorno aggiungono nuove foto facendo vedere come procedono i lavori. È veramente impressionante perché questa nave avrà 17 metri di lunghezza, ma ovviamente senza soldi, senza avere tante possibilità, è difficile di fare questo nel breve periodo. Certo, quindi insomma tempi lunghi, però che sono anche i tempi necessari a questi ex operai per fare squadra e per, come ho detto prima, riprendersi anche da questa sorta di depressione dovuta alla perdita del lavoro. Tanti, appunto, quasi tutti provengono dai cantieri navali perché è forma di disoccupazione. Insomma, la crisi ha colpito soprattutto questo settore. Sì, sì. Esatto, in generale adesso quando parliamo di questa nave, sì, parliamo anche delle persone che hanno perso tutto, che durante trasformazione, durante quando si nasceva il capitalismo, questa gente non era capace di assimilarsi nella nuova realtà. Allora sono rimasti da sole, senza casa, senza famiglia, senza soldi, depresse, senza speranza per nuovi giorni. Mm-hmm. Margozzata, tu invece rappresenti un po' la nuova generazione dei polacchi. Voi giovani ve la state costruendo questa speranza, nel senso che comunque c'è ottimismo? Sì, certo. Io a miei amici in Italia racconto sempre che noi giovani, questi che hanno 20-25 anni, guardiamo il mondo in modo diverso, viaggiamo, abbiamo tanta speranza, vogliamo conoscere la gente, però comunque siamo un po' tristi quando guardiamo queste storie, tipo ad esempio questi senza te. Allora io ad esempio sono commossa che loro sono capaci di fare ancora qualcosa, di avere i sogni. Certo. E così. Certo, di fare qualcosa di grande sarà questa nave. Con questa nave usciranno dal loro centro, usciranno, speriamo, da questo stato di crisi e faranno un giro del mondo che sarà qualcosa di ben più che una semplice metafora. Grazie davvero Malgorzata, ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Altra Europa, anzi se fate qualche inchiesta particolare con la vostra radio, noi siamo qua e siamo spugna alla ricerca di altre storie nel nostro continente. Ciao, grazie, buon sabato. Certo. Grazie, arrivederci. Ciao Malgorzata. Il video quindi vi ricordo è qui caricato sulle nostre pagine di Facebook, se volete vedere questi senza fissa dimora e la loro nave. Europost-it. Festival di Pasqua. Per gli amanti della musica, a Varsavia c'è la 15ª edizione del Festival di Pasqua. Il festival, che porta anche il nome del celebre compositore Ludwig van Beethoven, è una rassegna che prevede ben 20 concerti sinfonici e da camera con la partecipazione di musicisti di fama internazionale. Il programma di quest'anno è ancora più ricco per le celebrazioni dei 200 anni dalla nascita di Franz Liszt e dei 100 anni dalla morte di Gustav Mahler. Ma alle celebrazioni partecipano anche artisti e pittori della nuova generazione polacca che si sono dedicati a realizzare manifesti d'autore per il lancio dei concerti. Vale la pena farci un salto. Il festival è stato pluripremiato anche nel 2010 dall'International Festival Association. Affrettatevi e andate su beethoven.org.pl. Si suona fino al 22 aprile. Continua il nostro viaggio nell'attualità e non solo europea. Parliamo di burka e parliamo di quello che accadrà in Francia da lunedì, perché da lunedì prossimo il burka sarà fuori legge, entrerà in vigore questa nuova legge dopo 6 mesi, se non erro, e tutti quelli che porteranno una qualsiasi tenuta che dissimula il volto nei luoghi pubblici come cinema, stazione, ristorante, insomma, saranno multati fino a 150 euro. un cambio culturale di cui si sta parlando tanto. Anche noi vogliamo affrontare l'argomento. Lo facciamo intanto con questo audio. Sentite un po', perché si fa satira anche sul burka. Le Petit Journal participe au débat sur la laïcité à notre manière et répond-nous sur cette loi antiniquable qui ne l'avoue pas. Dès la semaine prochaine, il sera interdit de, je cite, dissimuler son visage dans l'espace public. L'État lance une campagne, la République se vit à visage découvert et le Petit Journal lance un test avec Patrick, le cheval citoyen qui vit à visage. Quello che sta accadendo è un servizio satirico che è nato in onda su una televisione francese, l'abbiamo già caricato anche sulle nostre pagine in Facebook, e c'è questa persona che gira per la Francia vestito da cavallo e appunto dice: non potrò più girare così perché ho il volto coperto e quindi sarò multato. Una provocazione satirica, ma c'è ben altro dietro a questa legge, e per parlarne abbiamo invitato Anaïs Ginori, che è l'inviata di Repubblica, è stata a Parigi, ha fatto un servizio molto molto bello che è stato pubblicato giovedì 7 aprile per raccontare anche una storia, e quindi volevamo capire da lei quello che sta accadendo in Francia. Ciao Anaïs, benvenuta all'Altra Europa. Ciao, buongiorno. Buongiorno a te. Abbiamo aperto facendo satira, abbiamo aperto ridendo, però non si sta ridendo tanto in Francia, mi pare di capire, in queste ore. Intanto precisiamo, perché in effetti è vero che ci possono essere degli effetti un po' paradossali della legge, e quindi, a parte il cavallo, però sono previste tutta una serie di indumenti, di cose che coprono il volto, per esempio un casco o cose del genere, che si possono portare ovviamente, perché la legge è, come dire, vuole colpire precisamente il burka, il niqab, che è sempre un velo integrale. E, è una situazione abbastanza tesa, perché comunque cambierà per la quotidianità di qualche migliaia di donne che finora hanno potuto indossare questo velo integrale, e, diciamo, senza essere fermate dalla polizia, anche se c'erano stati casi, in qualche caso in passato, anche nonostante, diciamo, non ci fosse ancora la legge, agenti francesi avevano fermato queste donne. È una misura simbolica, forse anche questo è importante dirlo, nel senso che ovviamente, come chiunque è stato in Francia, non è che nelle strade di francesi di Parigi, per esempio, ci sono orde di donne, certo, con velo integrale. La polizia stessa ammette che sono poche migliaia in tutta la Francia, quindi la misura che ha voluto il presidente Sarkozy in persona, e lui è stato il primo a dire due anni fa, iniziando appunto questa campagna contro il velo integrale, ha detto: il burka non è benvenuto in Francia. Cioè, questa è una cosa che ha voluto il presidente in persona, è una misura simbolica che vuole, al di là dell'effetto pratico su queste donne, vuole lanciare un messaggio contro l'integralismo e, insomma, integralisti dell'Islam. Certo. Insomma, una legge che, come ci dicevi tu prima, insomma, ha anche strane contraddizioni, nel senso che comunque la polizia non potrà far togliere il burka, se non erro, ma dovrà accompagnare queste donne in caserma, e lì però prima deve identificarle, quindi anche una procedura strana e bizzarra. E in automobili, per esempio, si potrà tenere il burka invece, essendo luogo privato? Ma allora, lì poi c'è stato questo caso che io, di questa donna che ho incontrato, che era stata multata l'anno scorso proprio perché lei guidava con il niqab. Sì. E aveva avuto una multa anche lì, insomma, non di pochi euro, 28 euro mi sembra, però in base a un regolamento della strada che prevede che non si possa guidare con indumenti, come dire, ingombranti. E lei poi ha fatto ricorso e ha avuto ragione, nel senso, il tribunale francese le ha dato ragione: si può guidare con un niqab, un burka, insomma, un velo integrale in automobile. Il fatto è che questa legge adesso entrerà in vigore, vedremo cosa succederà. È molto probabile che alcune donne decidano di non complicarsi la vita o comunque di sottomettersi a, come dire, alla legge. altre donne è possibile che facciano dei ricorsi, perché come sempre accade potranno sottomettersi e fare dei ricorsi costituzionali, addirittura si pensa anche alla Corte di Strasburgo, quindi secondo me gli esiti saranno più complessi di quello che si immagina e comunque, come ricordavi tu, già nella pratica un poliziotto potrà fare la multa ma non potrà costringere questa donna a svelarsi, e anche fare multa senza poterla identificare sarà complicato, quindi resta molto come dire un'ampia zona ambigua e comunque non chiara. Per questo credo sia importante ripetere che è una misura simbolica, come dire, che ha un obiettivo più che altro politico. Certo. Che è quello, insomma, di un messaggio anche in una Francia che in questo momento è molto sedotta dall'estrema destra di Marine Le Pen e che ha dei discorsi sull'Islam molto duri, quindi insomma siamo in questo contesto, è bene ricordarlo. Anaïs, e tu hai parlato con qualche francese, nel senso che comunque questa legge è caduta nell'indifferenza o comunque è stata accolta con attenzione, appunto, chi è contro, chi è a favore, chi vede in sé una provocazione, chi invece un qualcosa che vada appunto verso questa direzione di attenzione, maggior sicurezza, qual è un po' la sensazione che hai respirato? La legge sul burqa, chiamiamola così, bisogna capire che è fatta in un paese che ha la laicità come fondamento della Repubblica. Certo. Quindi non si può capire questa legge senza pensare che la Francia è il paese dei lumi e della laicità. E quindi questo per dirvi che in realtà c'è stata la fine, nonostante Sarkozy non sia più così popolare, un largo consenso intorno a questa misura, perché comunque anche da parte di una certa sinistra tutelare la città, quindi quello che sono, diciamo, simboli religiosi in luoghi pubblici, è qualcosa di condiviso, insomma è un valore condiviso. Quindi non c'è stata questa grande polemica. La polemica c'è stata per dire, in effetti non c'è bisogno di una legge perché sono poche migliaia di donne, sì, e perché se ci sono dei pericoli o dei problemi veri, i poliziotti hanno già nell'ordinamento attuale strumenti, i mezzi, certo, per intervenire. Certo. Grazie davvero Anaïs per questa tua fotografia, Anaïs Ginori di Repubblica, e ci ritroveremo sicuramente in una delle prossime puntate dell'Alta Europa. Buon sabato, grazie. Grazie a voi, a presto. Ciao, ciao, ciao. Europost-it. L'Oriente della donna. L'Orient des Femmes è una mostra che racconta l'altro volto delle donne dal nord della Siria alla penisola del Sinai, e lo fa servendosi di una collezione di 150 vestiti e ornamenti tradizionali. La ricchezza dei colori e la delicatezza dei costumi aiutano ad immaginarsi storie da mille e una notte legate ai veli, ai mantelli e agli abiti da cerimonia esposti per la prima volta in Francia, ma anche ad intuire la complessità del mondo femminile orientale che va ben oltre la sensibilità estetica. 150 costumi dal XIX secolo fino ai giorni nostri, selezionati da due curatori particolari, Christian Lacroix, artista e stilista, e Hana Shidiak, esperta di Oriente e di Africa del Nord per il Museo di Quai Branly di Parigi, che ospita la mostra fino al 15 maggio. Trovate tutto sul sito del Museo di Quai Branly di Parigi, quaibranly.fr. Questi sono i nostri Europost-it, che potete poi riascoltare dal nostro sito radio24.it oppure trovare il link nelle nostre pagine in Facebook. E l'altra Europa è radio24.it, se anche voi volete segnalarci storie o eventi e situazioni dall'Europa. Andiamo alla scoperta della nostra altra Europa, ma dal punto di vista dell'online lo facciamo solitamente nella prima puntata del mese. Sabato scorso abbiamo avuto qualche problema organizzativo e quindi abbiamo rinviato a oggi la nostra chiacchierata con Christian Hesser da Amsterdam, del sito mrharder.com. È un'agenzia di tendenze e strategia per i media online, e Christian ogni mese va alla ricerca per noi di alcune situazioni e di alcune applicazioni nuove che possono essere, insomma, avere anche delle ricadute nella nostra quotidianità. Ciao Christian, bentornato. Ciao Federico, buona giornata a tutti. Come sempre abbiamo anche il nostro aggiornamento mensile dall'Olanda. Che tempo fa, com'è la situazione in questi giorni ad Amsterdam? Fantastico. È un tempo, guarda, sole, che noi siamo tutti tanto talmente contenti quando vediamo sole anche qui in Olanda, che penso anche in Italia. Poi insomma un'Olanda fiorita anche, no, in questo sì, periodo. Sì, ma la primavera, guarda, chiunque che voglia venire in Olanda per vederla una volta, vieni in primavera, che è veramente fantastica. Perfetto, insomma, ogni volta ci inviti e ci dici che quello è il mese ideale per venire, quindi c'hai davvero convinti. Allora Christian, cosa hai trovato questo mese per noi? Senti Federico, cosa ti ho trovato? Ogni anno qui in Olanda abbiamo i Spin Awards, che in pratica sono gli Oscar per l'online qui in Olanda. Sì. Quest'anno ero giudice per la categoria social media. E da questa categoria ho tirato fuori un esempio perché mi piaceva molto illustrarlo. Lo illustro perché uno dei criteri principali per cui abbiamo fatto, nella giuria abbiamo fatto le nostre scelte, volevamo delle idee che facessero in modo che la gente, che non conoscendosi, venissero messi in comunicazione, in contatto l'uno con l'altro, via social media. Sì. Però gente che non abbia mai la possibilità nel quotidiano di incontrarsi, perché sono agli antipodi per quanto riguarda di persone o tipi o tipologie. Qui in Olanda abbiamo, come in parecchi paesi, abbiamo il programma di tossicodipendenza. Sì. È stato un esperimento molto interessante in cui un'agenzia ha preso un tossicodipendente e gli ha dato un profilo Facebook. Perché l'idea è, quando sei tossicodipendente, rientri in un certo circolo vizioso in cui non riesci più a trovare gente nuova, sai, sempre la gente che ti tira dentro, insomma, questo circolo vizioso bisogna romperlo, e hanno usato la pagina Facebook chiedendo a tutti di aiutare Monica, così si chiama, a trovare un modo di venirne fuori. Quindi un profilo Facebook reale? Un profilo Facebook reale dove lei a questo punto già ha 768 amici, dove ogni giorno mette dei post, fa vedere cosa sta facendo, come cerca di venirne fuori, dove gente da fuori la aiuta solo con affetto, amicizia, amore, simpatia, come tu voglia dirlo, ma cerca di darle una mano per venire fuori da questo circolo vizioso. E l'idea è talmente interessante che stanno guardando se questo possa essere proprio uno dei metodi per aiutare più gente in questa situazione. Certo, quindi insomma un utilizzo terapeutico, possiamo dire, dei social network. Ci vuoi dare un link che poi pubblicheremo anche nelle nostre pagine di Facebook? Sì, certamente. Il link è un po' guarda, te lo metto dopo sulla pagina, perché è un po' difficile da seguire, perché è un link abbastanza lungo. Perfetto. E poi in olandese. Perfetto. Te lo metto sulla pagina. Ottimo. Seconda segnalazione invece? Seconda segnalazione, un'idea sempre da questi Spin Awards, che c'era anche la categoria dei talenti nuovi. Sì. È un'idea piccolina, piccolissima, ma guarda, molto simpatica e bella. Anche a che fare con la privacy online. È una t-shirt, dove sulla t-shirt c'è un QR code, che è un codice che il computer può vedere cosa c'è dietro a questo codice, è una cosa un po' tecnica. Sì. Però è un t-shirt che devi mettere su ogni volta che vai fuori o vai in vacanza, e ci sia la possibilità che vengano a fare foto che magari non vuoi che vengano piazzate online. Sai, ogni tanto succede, ci sono quei momenti. Questo t-shirt, se tu hai su questo t-shirt, quando fai la foto e la mandi online, il computer riconosce questo codice e ti fa direttamente in modo che il viso venga coperto, nascosto. Nascosto, in modo che non vedi chi sia. Fantastico. La cosa mi piace molto, perché è una specie di difesa su tutta questa privacy online di cui tutti ne parlano. Fantastico. In questo modo tu ti puoi difendere, metti la t-shirt e nessuno ti riconosce. Fantastico. No? Ottimo. Allora, i link li troverete sulle nostre pagine in Facebook, oppure mrharderblog.com/radio24, è anche il sito dell'agenzia di Christian Hesser, appunto agenzia che va alla ricerca di nuove tendenze, nuove strategie per i media online, con sede ad Amsterdam. Ciao Christian. Cristiana, grazie, buon sabato. Sì, anche a voi. Ciao, ciao. Ciao. Mese prossimo, ciao. Ciao. Precario il mondo, precario il mondo, flessibile la terra che sto pestando, atipica la notte che sta arrivando, volatile la polvere che si sta alzando, precario il mondo. Precario il mondo, non è per nel ghiaccio, si sta sciogliendo. Ancora buon sabato da Federico Taddia, questa è l'altra Europa. Abbiamo riaperto con Silvestri che canta Precario il mondo, in questa che è la giornata dove i precari in Italia scenderanno in piazza, e noi invece parliamo di disoccupazione giovanile, il nostro programma con la rete di Euronet, euronet.eu. Lo sapete, ogni settimana affrontiamo un tema comune da tanti punti di vista diversi, ma per un paio di settimane il focus di Euronet è proprio sull'occupazione, o meglio la disoccupazione giovanile, tanto che il 12 aprile a Bruxelles è organizzato un Euronet Connect. Euronet infatti riunisce gli studenti e quelli che decidono, che fanno le scelte alte nell'Unione Europea a Bruxelles, e anche con tanti collegamenti online, per capire che cosa l'Europa può fare per aiutare la crisi dell'occupazione giovanile. Ci saremo anche noi di Radio 24, ci sarà Sergio Nava, che poi sabato prossimo ci dirà quello che è successo, quello che è avvenuto in questo importante appuntamento. Ma anche noi vogliamo anticipare il tema, e lo vogliamo fare però in chiave propositiva, tante analisi su quella che è il problema lavoro oggi in Italia e in Europa, e noi abbiamo cercato una chiave invece che fosse costruttiva, e quindi abbiamo scelto di invitare il presidente dell'Associazione Scambi Europei, Stefano Campanari, che è proprio un'agenzia che ha come obiettivo quello di trovare nuove vie di occupazione dei giovani in Europa attraverso scambi, attraverso stage, attraverso incontri di formazione e non solo, molto reali. Ciao Stefano, benvenuto all'Altra Europa. Ciao, buongiorno a tutti, ciao. È un po' questo, no, il focus della vostra attività, offrire opportunità. Sì, sicuramente, è proprio questo. Ecco, forse più che agenzia, diciamo che siamo un organo di informazione, ecco, un organo di informazione che vuole sostenere la mobilità europea promuovendo proprio le varie possibilità esistenti a livello europeo per i giovani italiani che vogliono vivere un'esperienza all'estero, che oggi come oggi diciamo che è fondamentale, anche e soprattutto in questo periodo in cui insomma l'Italia a quanto pare non è che sia proprio un paese per giovani, e a volte ci fa sentire il bisogno di provare altrove, e noi cerchiamo di dare, di fornire tutte le opportunità che ci sono proprio per andare a vedere che cosa c'è anche, ecco, al di là dello stivale, se si può vivere un'esperienza di lavoro, di stage, di volontariato, di scambio interculturale al di là dell'Italia. Ecco, questo credo, non con l'idea che insomma all'estero sia tutto meglio, comunque per incentivare la fuga, che sia di un talento, che sia di un cervello, che sia solo di chi ha voglia di lavorare, ma proprio per come occasione di crescita. Vado, vedo, guardo, respiro aria nuova, mi contamino, e poi magari sì, posso anche scegliere di rimanere là, ma posso anche scegliere di tornare con un bagaglio di esperienze diverse, esperienze nuove. E quindi queste opportunità ci sono, e credo sia questa un po' anche la notizia. Sì, in realtà queste opportunità ci sono, secondo noi fino a poco tempo fa insomma avevano ancora poca visibilità, troppo poca rispetto a quella che è invece la richiesta dei giovani, insomma, di provare a vivere un'esperienza che, come dicevi te, giustamente è anche volta semplicemente a una crescita sia a livello personale che professionale, per poi insomma ritornare, perché no, anche in Italia, e dare il proprio contributo, che sicuramente sarà accresciuto, ecco. Ci sono queste opportunità, sono diverse, vengono sia insomma da aziende private sia dall'Unione Europea stessa, che mette a disposizione attraverso alcuni programmi, tra cui il principale con cui lavoriamo noi in maniera attiva, quindi non solo come organo di informazione, è Gioventù in Azione, che propone servizio volontario europeo, scambio interculturale, che sono varie modalità appunto per vivere un'esperienza all'estero senza dover spendere delle cifre o comunque spendere dei soldi o comunque far ricorso ad agenzie che richiedono appunto dei contributi per partire. Scambieuropei.com è il sito del portale con centinaia di offerte e possibilità che vengono costantemente inserite e aggiornati in tempo reale. Stefano, passiamo dalla teoria alla pratica, ci fai una carrellata di alcune di queste opportunità proprio per capire qual è il cuore della vostra informazione? Sì, allora, come dicevo prima, appunto, ecco, scambi interculturali. Noi, oltre a fare informazione, abbiamo anche una vera e propria associazione che lavora facendo progettazione europea, e abbiamo attivi diversi scambi interculturali in questo momento. In Romania un progetto sul teatro come strumento di lavoro nel sociale, un progetto sul consumo critico, un servizio volontario europeo di un anno a Barcellona, cui i ragazzi appunto andranno a lavorare, a fare proprio europrogettazione presso una fondazione che si chiama Catalunya Volontaria. abbiamo dei treni in corsa che sono degli scambi, ma diciamo meno ludici e più formativi su diversi temi. Abbiamo un altro scambio interculturale a giugno a Madrid sulla poesia come metodo di inclusione sociale per i giovani. Tutto questo, oltre ovviamente alle varie offerte di lavoro e di stage, insomma, che ovviamente fanno parte di un'altra dinamica, ma rientrano sempre nel concetto di vivere un'esperienza all'estero per formarsi. Stefano, un'ultima domanda. Ci siamo accorti che a livello europeo, insomma, è difficile trovare un accordo anche sulla parola giovane. E quando tu parli di giovani e di questi progetti aperti ai giovani, pensi a un'età limite, che c'è un'età che è simbolica, insomma, oltre la quale è inutile tentare di partecipare a questi scambi? Allora sì, a seconda del tipo di azione a cui si vuole partecipare ci sono dei limiti di età. Mm-hmm. Diciamo che mentre per uno scambio interculturale può essere intorno ai 26-27 anni, per il servizio volontario europeo si arriva anche ai 35 anni, per cui diciamo che non si può fare un discorso generale, bisogna vedere la singola azione a cui si è interessati. Comunque, ecco, in generale fino ai 35 anni si hanno opportunità, ci si può sentire ancora giovani in Europa, ecco. Non per tutte le opportunità che ci sono, ma qualcosa si riesce a trovare. Ok, grazie davvero a Stefano Campanari, scambieuropei.com è il sito ufficiale del portale. Ciao Stefano, buon lavoro e grazie per aver accettato il nostro invito. Ciao, buon sabato. Europost-it. Campagna assunzioni dell'Unione Europea. È partita la seconda campagna annuale di assunzioni per la carriera di amministratore nell'Unione Europea, che punta ad attirare giovani da tutta Europa per impieghi nel settore giuridico, economico e dello sviluppo delle politiche. Per facilitare i giovani in cerca di lavoro, quest'anno è stato deciso che possono candidarsi anche i ragazzi che si stanno ancora laureando. Un'altra novità è che i test per la prima volta si potranno svolgere nella propria lingua madre. Ci sono 300 posti per funzionari che lavoreranno per gli oltre 500 milioni di cittadini europei. Affrettatevi però, i concorrenti sono tanti e il termine per la presentazione della candidatura è il 14 aprile 2011. Per maggiori informazioni e per mandare la propria candidatura online, eu-careers.eu. Kandidatja konsensuale e PDK-s, LDK-s dhe AK-s për presidentet e Kosovës, Atifete Jajaga, edhe pse kohën e fundit mbante poste me rëndësi në forcat e rendit, deri më tani nuk ka qenë emër shumë i njohur për opinionin. Ajo është 35 vjeçare me priardhje nga Gjakova dhe ka të mbaruar fakultetin juridik në Prishtinë. Është e martuar me mjekun Astrid Kuqin. Si juriste e diplomuar, Atifetja carriera e sai nel polizia e ha filluar si përkthyese. Quello che state ascoltando è il profilo del neo presidente del Kosovo, notizia di questi giorni, classe 1975, giovanissima, una donna, la prima donna a essere presidente di uno degli stati dei Balcani. Era la sera prima non una normale cittadina, perché insomma è l'ex capo della polizia, ma la mattina dopo si è svegliata ed era stata nominata presidente. E Atifa Ahiaga è il suo nome, e per capire quello che è successo e per capire soprattutto quella che è stata la reazione della popolazione, perché insomma c'è molto entusiasmo soprattutto tra i giovani, abbiamo invitato Zoe Salander, l'abbiamo già conosciuta, una psicologa italiana che lavora in Kosovo. Ciao Zoe, bentornata all'Altra Europa. Ciao Federico. Ciao, grazie. Allora, abbiamo avuto uno shock culturale. Abbiamo una donna come presidente, come hai detto, giovane e capace, e di Gjakova. Vorrei dire che è un evento che, se al di là delle valenze politiche, avrà sull'immaginario collettivo di questo paese tuttora molto patriarcale delle conseguenze non calcolabili. Mm-hmm. E le reazioni a caldo delle persone attraverso i commenti sui giornali e per la strada erano tutti sorprendentemente piuttosto positivi. È stata presa con sorpresa, con gioia anche questa elezione, perché soprattutto i giovani hanno visto un punto di svolta, forse? Beh sì, effettivamente il fatto che una donna di 36 anni possa coprire una carica così prestigiosa ha incoraggiato senz'altro soprattutto le ragazze, direi. E in effetti il fatto anche che la scelta che l'ambasciatore americano Dell, diciamo, ha supportato con una certa decisione sia caduta su questo profilo indica anche un fatto, il fatto che il messaggio del cambiamento, il messaggio del fatto che bisogna rigenerare soprattutto la classe politica può essere passato cogliendo l'opportunità della delegittimazione del presidente Pazzolli, certo, che invece incarnava esattamente l'esatto opposto, era definito il Berlusconi del Kosovo. Grazie davvero Zoe per averci come sempre raccontato così il tuo punto di vista dal Kosovo in occasione di questa importante elezione del neo presidente. Ciao e buon sabato a una delle prossime puntate grazie dell'Alta Europa. Ciao, buon ciao. Sabato. Ciao. Ciao. Grazie davvero a voi per essere stati in nostra compagnia, un grazie a Claudia Carusi con me ha scritto la puntata, con la collaborazione di Margherita Ina, Giorgio De Luca in assistenza, Peter Bescapè alla parte tecnica. Noi ci ritroviamo qua come sempre sabato prossimo, ci trovate in Facebook e ci trovate sul sito radio24.it. Ancora ciao da Federico Taddia.